canta de la tempesta, canta de la tempesta, canta de la tempesta. Mia regina dell'oscurità, la tua voce mi incanta. Quando suoni il violino, sempre incantesimo, il tuo fascino, tua magia mi incanta. Nell'oscurità c'è una dea gotica, la donna è splendida, cattiva, una creatura immortale. Guardando